dedicata ad Ernestone. La prossima è dedicata ad Ernestone, che ci sente tutte le sere dalla stanzetta dietro la saletta. Dalla stanzetta dietro la saletta c'era una casetta che fa rima con... non lo civetta. So. Allora, ultimamente abbiamo detto in giro che sta canzone è nostra e che ce l'avevano rubata, è vero? Però siccome abbiamo contattato l'artista che ce l'ha rubata e stiamo mettendo d'accordo per un conguaglio economico abbastanza sostanzioso, adesso possiamo cominciare a dire che non è nostra. Si può fare, no? Forse la conoscete, forse no. Comunque dai, Shakira, facci sognare. Maestro. You're a good soldier, choosing your battles. Pick up yourself, dust and fall back to the saddle. You're on the front line, everybody's watching. Things are serious, we're getting closer, this is over. The pressure's down, drop it in. You got it, go, believe it. When you bang it up, you bang it up. Tell me now, me not zungle, what's that? Hey, hey, waka, waka, hey. Your goat, it's a motto. Now when you shine, we win in life. Vamos por todos! People are raising expectation. Good to feel this is your moment, no hesitation. Today's your day, happy day. You pass away, believe us. Grazie Ernestone.